La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, la rosa purpurea, un saluto a tutti da Franco D'Assisti, da Radio 24, per la nostra ora di cinema, l'ora che arriva subito dopo, qualche giorno dopo le nomination agli Oscar, una puntata che è intrisa di Oscar, perché arriva nelle sale cinematografiche La La Land, che è stato l'acchiappatutto di queste nomination. Ne parleremo diffusamente e poi avremo anche ospite, attenzione, un'intervista esclusiva che il nostro Boris Sollazzo ha realizzato con Dario Argento, perché torna nelle sale Suspiria, uno dei suoi capolavori, e quindi ne parleremo con lui. Avremo Giulio Scarpati, che ci racconterà la versione teatrale di Una giornata particolare. Insomma, davvero menù molto ricco. E allora entriamo subito nel vivo con gli Oscar, con quello che è stato il bilancio delle nomination. E saluto già Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, nomination agli Oscar, abbiamo visto La La Land piglia tutto, o quasi tutto, comunque record eguagliato di 14 nomination, ma abbiamo visto anche le 8 nomination ad Arrival, le 6 ad Hacksaw Ridge di Mel Gibson. Insomma, c'è anche, come dire, una certa battaglia, secondo me, al di là del numero abbastanza clamoroso di nomination andate al film di Chazelle, del quale parleremo fra poco. Però come leggi queste nomination in generale? Ecco, secondo te c'è qualcosa che è rimasto fuori? C'è qualcosa che è stato premiato oltre le aspettative? Premiato con le nomination per il momento? Beh, come sempre, è inevitabile fare, no? Come con le figurine, ce l'ho, non ce l'ho. Fa un po' impressione vedere ad esempio fuori dalle migliori attrici Amy Adams a favore dell'ennesima candidatura di Meryl Streep, che forse per Florence è anche meritata, ma che comincia a diventare parossistica come scelta, anche perché per come è costituita la cinquina sicuramente Meryl Streep non vincerà. Fa anche impressione che rimangano fuori Scorsese e Eastwood. Lì però secondo me c'è anche la svolta politica, una sorta di Trump effect che ha colto questa edizione degli Oscar. Francamente non credo che sia un caso che siano stati premiati i temi black e attori e registi afroamericani in questo contesto, cioè nel momento in cui la casa è tornata bianca a Washington, a Hollywood hanno deciso di colorarsi di più, e quindi c'è il record delle 6 candidature a 6 attori afroamericani. C'è Barry Jenkins, che è il primo regista afroamericano che prende regista, sceneggiatura e miglior film come candidatura. Ci sono 3 film, a mio parere, non di grandissima fattura, come Moonlight, Barriere e Il diritto di contare, che sono film molto didascalici, molto di impegno civile attesi. Uno è black femminista, l'altro è black queer, insomma fanno tornare alla Hollywood di Bush, per intenderci, quella che magari premiava oltre i propri meriti registi che si impegnavano attivamente contro l'establishment, e quindi in questo senso magari appunto si spiega anche come lo Scorsese, che parla di cristiani perseguitati, quindi insomma vittime bianche tra virgolette, o Sully, che ci propone un eroe WASP, rimangano fuori. Si fa più fatica a capire come Amy Adams non trovi spazio, però pazienza. Curiosità però è secondo me anche nelle candidature italiane, cioè al di là di Fuoco a Mare, che era forse dovuto anche per il successo che aveva avuto uno dei 5 tra i miei documentari, anche lì incredibilmente si troverà a combattere con 3 documentari sugli afroamericani. C'è anche Alessandro Bertolazzi nel Trucco e Parrucco di Suicide Squad, che, curiosità, probabilmente ha tolto il record assoluto di nomination alla La Land, perché pare che sia proprio lui l'ultimo entrato in quel caso il terzetto, se non sbaglio, che ha tolto la 15ª nomination, che avrebbe fatto superare Eva contro Eva e Titanic, con cui invece condivide il record adesso La La Land di nomination. È comunque un buon panel quello che vediamo. Fa piacere che Mel Gibson abbia trovato spazio, visto che insomma Secondo me gode come regista di un pregiudizio che deriva dalle sue dichiarazioni pubbliche. Insomma, è interessante anche questo ritorno al film Piglia Tutto. Si era molto più democristiani nelle ultime le ultime edizioni degli Oscar. Sarà interessante vedere, anche se credo che quest'anno, mai come quest'anno, i pronostici siano facili, e penso che potrebbe addirittura fare il record di andare in doppia cifra. Ancora una volta Venezia batte Cannes clamorosamente per quanto riguarda il numero di nomination, perché da Venezia quest'anno sono passati 33 nomination agli Oscar, da Cannes ne sono passate 12. Ora, questo in sé non è che significhi nulla, al di là del piacere, significa che però, al di là della stagionalità, chiaramente Venezia a settembre, magari i film per gli Oscar sono un po' più pronti e ci vanno, però significa che Venezia sta veramente quasi vivendo una simbiosi con La Notte delle Stelle, sicuramente trasformando un pochino, anche ampliando l'aspetto più spettacolare della sua proposta. Non a caso anche in questo caso, anche quest'anno, il film d'apertura era La La Land, cioè il film piglia tutto, come accadde già con Gravity qualche anno fa. Insomma, c'è secondo te una trasformazione del nostro principale festival in direzione di un cinema più spettacolare, comunque più vicino ai gusti del cinema americano? C'è sicuramente una consonanza con gli Oscar che non va verso il basso, cioè verso magari un cinema hollywoodiano facile da premiare, e in questo senso, se pensiamo a Mel Gibson, che probabilmente da Venezia ha avuto una grande spinta, ma verso invece le parti più alte, i picchi, i vertici di un cinema hollywoodiano che cerca di ripensare sia il suo intrattenimento sia il suo cinema impegnato. Certo, il nuovo cinema indipendente americano che si è fatto mainstream nel frattempo, ma che appunto ha titoli come anche Jackie, Animali Notturni, insomma tutte esperienze cinematografiche di un certo livello. Va dato atto a Cannes di avere piazzato però 9 film contro i 6 di Venezia, ma i 6 di Venezia sono quelli che pesano di più. E allora lo vedremo, fra poco lo sentiremo anche l'ambiente, l'audio e le suggestioni di La La Land. Viabilità, fra poco torniamo insieme alla Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. City of Stars, la città delle stelle, Los Angeles, sfondo di La La Land nella voce del protagonista maschile Ryan Gosling, al fianco di Emma Stone, mattatori di questo film appunto, che come abbiamo detto fatto incetta di nomination agli Oscar. Los Angeles, la patria dei sogni, la patria dello show business, la patria di anime perse che cercano una loro realizzazione. Così sono Sebastian e Mia. Sebastian fa il musicista, il pianista, sogna jazz di altissimo livello, ma è costretto a campare suonando nei ristoranti musica che non interessa a lui o che non interessa alla gente se suona la sua. Mia invece sogna di fare l'attrice, studia recitazione, fa provini anche molto umilianti uno sull'altro, ma sogna di arrivare in alto. Nel frattempo però serve cappuccini nel caffè interno degli studios della Warner. Si troveranno queste due anime già all'interno di una scena iniziale clamorosa, veramente un omaggio al musical classico, in mezzo a un'autostrada, a un cavalcavia sospeso nel niente. Si incontreranno i loro sguardi, si rincontreranno più in là, si ameranno davvero alla follia. Ma le due vite continuano con i loro ostacoli, come per esempio appunto le audizioni a cui si sottopone Mia. No, sono felice per te. Davvero sono felice per te. È che pensavo. So che pensavo. Un attimo. Che c'è, Ruby? C'è Jessica al telefono. Dille che la richiamo. Tra 2 minuti? Meno di 2 minuti. Ti porto il pranzo. Ho quasi finito, grazie. Oh, sì, senti, direi che può bastare, ti faremo sapere. Ecco, audizioni che vengono interrotte da tutto quello che capita, una concentrazione attoriale che sfuma insieme ai sogni. Però, come dicevamo, c'è l'amore, c'è l'attrazione, ci sono queste due anime che si incontrano e che magari per un attimo cullano anche il sogno di riempirsi una con l'altra, di trasmettere le proprie passioni e magari anche, che so, di avere un futuro insieme. A partire, per esempio, da un cinema avvolgente, classico, bello, che può essere lo sfondo per un ennesimo momento d'amore. Mi hanno richiamata. Cosa? Davvero? Per cosa? Per una serie TV. Quella di cui ti dicevo prima, quella... Pensieri pericolosi / Dio sì. Sì. Tanti auguri. Sono troppo contenta. E forse ne ho parlato un po' troppo male prima. Ah sì? È più una cosa tipo gioventù bruciata. Avevo io i proiettili. Esatto. Tu non l'hai visto? No, non l'ho mai visto. Sei matta. Sai che lo danno al Rialto? Davvero? Sì. Dovresti, voglio dire, ti ci posso accompagnare. Va bene. Sai, come studio. Come studio? Sì. Sì. Mother girl and guy would love this swirling sky. Ma la vita a volte ha i suoi comandamenti e le cose vanno come devono andare, non sempre come vogliamo. A volte vince la vita, a volte vincono i sogni, ma la vita perde. Ed è un po' questo il senso che vuole trasmettere questo La La Land, il cui racconto va avanti, appunto, va avanti fino in fondo con un finale altrettanto esplosivo che la scena iniziale, di cui ovviamente tacciamo. Dirige, per chi non lo sapesse, Damien Chazelle, 31 anni, era reduce dall'exploit di Whiplash, piccolo film indipendente, anche qui con l'amore per il jazz sullo sfondo, questa volta la storia di un batterista, e con le aspirazioni soprattutto sullo sfondo. Dicevo che a sorpresa aveva vinto addirittura 3 Oscar, ma stavolta il budget a disposizione, la grandezza dell'impresa di Chazelle è di tutto un altro pianeta. Mettere insieme il musical classico, l'amore per il jazz e cercare di reinventare un genere. C'è sicuramente molto del cinema degli anni belli del musical, ma a mio modo di vedere c'è soprattutto molto di un maestro europeo di questo genere come Jacques Demy, perché c'è il colore, il lavoro sul colore straordinario. Chi ha visto Le Parapluie de Cherbourg capisce subito cosa sto dicendo, a cosa mi sto riferendo. C'è quel senso di nostalgia, una nostalgia ineluttabile, un qualcosa che ostacola la nostra felicità, la grande storia, la grande situazione che si mette contro gli amori che diventano impossibili. Ci sono davvero tanti ingredienti che sono più cari, e anche l'amore per il jazz. Il musicista di Demy era Michel Legrand, che era un grandissimo jazzista, e qui appunto è il jazz la base musicale. C'è una reinvenzione del genere, due protagonisti un po' meno Fred Astaire e Ginger Rogers, un po' meno Gene Kelly, un po' più goffi forse in certi momenti, ma sempre totalmente amabili, bravissimi, cantano ovviamente anche sempre loro, e questo è anche un altro valore aggiunto. Insomma, ingredienti importanti, e qui mi riferisco a Boris Sollazzo. Boris, io non uso tanto spesso la parola capolavoro, ma per me in questo caso va usata. L'ho usata subito sulla pagina Facebook della Rosa Purpurea la mattina dopo aver visto il film, perché se capolavoro significa una pietra miliare di un nuovo corso, se significa reinventare un genere, dargli una nuova vita e una nuova prospettiva, beh, allora La La Land è un capolavoro. Esattamente, sono d'accordo con te, caro Franco. Non mi stupisce che tu lo abbia definito capolavoro il giorno dopo, perché la grandezza di La La Land è l'entusiasmo che produce nello spettatore, è la felicità con cui si fa cinema e la felicità in cui si fruisce cinema da parte dello spettatore. Capolavoro che cosa vuol dire letteralmente? Qualcosa che mette un punto e a capo nel lavoro, cioè nello stato dell'arte, ed è esattamente quello che dicevi tu, cioè quello che fa Damien Chazelle è prendere un genere e reinventarlo in chiave estremamente moderna. Ci sono i colori di Demy, ci sono i sentimenti di Lubitsch, c'è la musicalità di Stanley Donen, c'è il cinema jazz di Vincente Minnelli, c'è tutto in Damien Chazelle, ma c'è Chazelle, che è questo fenomeno di 31 anni che ha prima iniziato con due corti straordinari, poi ha fatto un film indipendente che è piaciuto in tutti i circuiti Sundance e via dicendo, poi ha fatto Whiplash, che era un altro, a mio parere, capolavoro, sempre in questo senso letterale che noi gli diamo, e poi arriva alla La Land e ha 31 anni. Noi poche settimane fa parlavamo di Xavier Dolan. Ecco, Chazelle è un altro Dolan, è un altro che al fiere di questa rivoluzione generazionale, che ha imparato perfettamente la lezione dei classici, la lezione del grande cinema, che si è cibato di grande cinema e ha saputo rielaborarlo in una chiave modernissima, in una chiave originale, e che riesce a gestire gli attori e la cinematograficità dei propri racconti in una maniera assolutamente esemplare. La La Land non ho paura neanche io a definirlo capolavoro, perché ha veramente tutto. Ha la capacità di uscire da quella patina un po' vecchia, volendo antiquata, in cui il musical si era rintanato e che poi magari grandi registi come Moulin Rouge e Chicago avevano cercato di rispolverare, e ha deciso di costruire un'alternativa potentissima nel genere. Questo perché? Perché c'è meno musical di quello che ci potremmo immaginare, cioè tutti quelli che magari hanno un pregiudizio verso il genere perché la sospensione della credulità dello spettatore nel momento in cui si inizia a cantare o ballare non può esistere, perché c'è la stessa felicità delle scene di Singing in the Rain, in cui tu vieni trasportato, no? In questi salotti, o in questo caso specialmente in spazi aperti, dove si balla con gioia, ci si diverte, dove ci sono due attori straordinari. Da una parte quel Ryan Gosling che riesce ad utilizzare quella sua unica espressione come se fossero un ventaglio di varietà straordinarie, e dall'altra c'è un Emma Stone che, se davvero continua così, rischia di diventare la Meryl Streep della sua generazione, perché diciamocelo francamente, senza nulla togliere a Gosling, è lei che si porta sulle spalle questo film. Ma dove sta l'originalità? L'originalità sta anche nel contenuto, perché che cosa faceva il musical in passato? Raccontava il sogno americano anche nelle sue ombre, raccontava l'entusiasmo degli americani per un idealismo, per quel diritto alla felicità a cui tutti devono avere accesso, e di quanto però sia difficile arrivare a questa felicità. Loro sono una coppia che si incontra, che forse non era neanche previsto che si trovassero. Arrivano perché hanno un sogno in comune, quello di avere successo. Hanno talento, ne hanno tanto, e fino a quel momento nessuno però li ha valutati come meritavano. Si incontrano, nasce un sentimento potentissimo, e a questo punto uno dice: vabbè, la banalità è a due passi, perché loro si troveranno, avranno successo, e invece lì è il segreto, perché è il film d'amore più dolce, più potente che voi potreste vedere, ma a suo modo anche il più cinico, perché questi due ragazzi dovranno capire qual è la loro felicità: innamorarsi, vivere una vita insieme, far superare tutti gli ostacoli da questo amore, oppure il successo, la fama che meritano, che vogliono, che desiderano più di ogni altra cosa insieme all'amore. Le due cose possono stare insieme? Non lo sappiamo. Ecco, nonostante le premesse ci dicano che le conclusioni dovrebbero essere scontate, in La La Land nulla è scontato, come quella scena finale pazzesca. Io ancora non riesco da settembre a smettere di avere un entusiasmo selvaggio per questo film, e credo che me lo andrò a rivedere per la terza volta. Me lo andrò a rivedere in sala, perché voglio vedere gli spettatori che battono il piede mentre i due ballano e cantano, e credo che non si possa dire niente di meglio per un film. Assolutamente, non mai recensione, come dire, più entusiasta qui alla Rosa Purpura da parte sia mia che di Boris, quindi il consiglio è evidente, andatelo a vedere. Io sicuramente lo andrò a rivedere. Peraltro, se volete ascoltare le straordinarie varie canzoni a partire da City of Stars che sentite qua sotto, soprattutto firmate da Justin Hurwitz, perché va dato atto al musicista di questo film. Ebbene, da questo weekend è in circolazione in Italia, in tutti i negozi di dischi e anche in digitale, la colonna sonora originale del film La La Land, e quindi insomma potete anche trovare questo appoggio che può darvi così una permanenza delle emozioni che il film vi avrà creato. Nel frattempo il film è partito bene nelle prime rilevazioni del weekend, insieme a Split, di cui parleremo fra poco, è uno dei film più visti in queste prime giornate, e quindi, come dire, sicuramente avrà una vita importante anche nelle sale cinematografiche italiane. A questo punto giochiamo insieme, perché è arrivato il momento di cominciare a provare a vincere il nostro film misterioso di oggi. No, se io prendo la tua targhetta, posso salire al tuo posto nel camion da trasporto e tu tornerai dentro a cercare i tuoi genitori. Non devi far altro che darmi la targhetta. Ma com'è stata buona oggi la nostra Miriam Lucchetti in redazione. Insomma, si parla di trovare i genitori, Miriam, più di così. Scriviamogli nome e cognome. Vabbè, dai, facciamo che siamo stati cattivi altre volte, oggi siamo stati buoni. Il nostro indirizzo è sempre la rosa purpurea @radio24.it. Diteci di che film si tratta. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e più tardi anche un'altra traccia. Adesso linea alla regia, fra poco l'altro filmone della settimana, Split. La rosa purpurea. Non ho mai visto un caso del genere. 23 personalità abitano nel corpo di Kevin. Tu chi sei? Aiutami ad uscire da qui, Hedwig. No, no! Cerchi di fregarmi? Faccio la spia. Sei proprio la più sveglia. Un individuo con personalità multipla può cambiare la struttura del suo corpo con il pensiero. Qualcuno sta venendo a prendervi. Chi sta venendo? La bestia. 23 personalità diverse, un solo attore per interpretarle, James McAvoy, stiamo parlando di Split. 23 personalità e non è mica finita, perché ancora ce n'è una che è la sua psichiatra di fiducia, l'unica donna della quale, questo malato psichiatrico grave si fida, l'unica con la quale si confida. Ebbene, ce n'è ancora una che questa psichiatra sta cercando, quella della bestia che avete sentito nella clip. Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan, tanto per andare alle radici, il regista del Sesto Senso, ma di tante cose riuscite o meno riuscite dopo, fortunatamente negli ultimi tempi più riuscite che meno riuscite, quando Shyamalan è tornato a una dimensione un po' più, non dico artigianale, ma sicuramente indipendente dei suoi film, che poteva tenere più a bada anche a livello produttivo. Lì The Visit, pensate al film precedente, la storia di questi nipoti che vanno a casa dei nonni che sembrano non essere proprio i nonni perfetti, insomma, sembra uno Shyamalan molto in forma, e lo conferma in questo film, con un James McAvoy straordinario, appunto, le 23 personalità che sono 23 voci, sono 23 sembianze, sono 23 vestiti, 23 espressioni che lui interpreta in buona parte nel film. Boris, è un Shyamalan, come dicevo, in grande forma, con una storia incredibile, cioè quella di un personaggio che è tanti personaggi e di una fuga, quella delle ragazze che diventano le sue vittime preferite, le sue vittime designate in qualche modo, che devono cercare appunto di scappare da questo posto. Un film claustrofobico in un certo senso, come The Room in qualche misura, ma con in più il fattore aggiuntivo, il valore aggiunto di un attore veramente mattatore in questo caso. Sì, incredibilmente non considerato per gli Oscar, James McAvoy, che ha veramente un coraggio leonino nel affrontare questa sfida incredibile, e il coraggio è di tutti, della casa produttrice che cormanianamente continua a proporre film a basso budget, per intenderci sono gli stessi di Paranormal Activity, o anche della Notte del Giudizio, per poi andare a conquistare il mercato. E come dici tu, nel momento in cui ha assunto di nuovo il controllo sull'apparato produttivo più semplice, più lineare, uno dei più grandi registi, parlavamo di ragazzi prodigio, lui lo è stato, con i suoi primi 5 film ha superato il miliardo di dollari di incasso, ebbe una cifra vertiginosa solo al pensiero, è tornato se stesso, proprio quando sembrava destinato al declino. Con The Visit ci aveva dato una speranza, con Split ci dice che è tornato facendo forse uno dei suoi film migliori. Shyamalan ha questa grande intuizione, cioè di raccontare attraverso un attore un colossal in due stanze in un corridoio, perché quasi tutto avviene in questo covo di questo malato psichiatrico che se poi deve uscire in esterna va in un altro appartamento che è quello della sua psichiatra che è convinta che gli uomini e le donne con personalità multipla siano gli unici che abbiano imparato ad usare il cervello nella propria totalità e che quindi siano sostanzialmente i supereroi, che abbiano quasi facoltà soprannaturali o che la soprannaturalità abbia una spiegazione scientifica. Bravo James McAvoy, ma bravissimo Night Shyamalan, che ha la capacità, con il suo talento visivo eccezionale, con la sua capacità di muovere gli attori anche come burattini, come fa con le tre ragazze che hanno un'espressività molto forte nonostante la loro giovane età, e con James McAvoy che davvero almeno in 4-5 di queste personalità è straordinariamente brillante, riesce a portare avanti un thriller che ti prende proprio alla gola, che ti strozza dalla suspense, che ti mette un'inquietudine addosso infinita e che ti porta anche ad avere un'empatia ambigua verso tutti i personaggi in questione. Il fatto che sia tornato noi lo scopriamo poi alla fine, la fiducia che è tornata in questo grande regista sta nell'inside joke finale con Bruce Willis, che non sveleremo ma che è assolutamente geniale anche nella sua divertita cialtronaggine. E Split, adesso non lo usiamo mai la parola capolavoro, ma diciamolo, è un capolavoro nella cinematografia di questo regista, perché proprio quando pensavamo di averlo perso lui mette un punto a capo, decide con $1,500,000 di dimostrare a tutti che può fare un film che a mio parere incasserà moltissimo e troverà nella critica un grande appoggio. Basti pensare che nel primo giorno di programmazione in Italia appunto ha superato, anche se solo di €17,000, La La Land, questo per farvi capire la portata e la forza di questo film. Quindi complimenti e siamo molto felici, perché ci si apre davanti probabilmente un altro quindicennio, ventennio di Shyamalan ai suoi livelli, dopo che per 10 anni era davvero scomparso ed era diventato la parodia di se stesso. E allora anche Shyamalan, insomma, settimana bella densa, e sono tanti film che escono questa settimana. Abbiamo deciso di concentrarci in maniera più forte su quelli che veramente sono due capisaldi forse anche di questa stagione cinematografica. Peraltro l'ha detto giustamente Boris, incredibile la dimenticanza di McAvoy nella notte degli Oscar, nelle nomination Oscar, che vi ricordo saranno assegnati il 26 febbraio, quindi chiaramente avremo tutto il tempo poi di occuparcene. Allora giochiamo insieme ancora con la seconda traccia del film già poco misterioso di oggi. Mi sono nascosta. Ora conta fino a 10. 1, 2, 3 4. Vabbè, 4, e il resto ditelo voi alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a ricevere uno dei due Blu-ray che annunceremo la prossima settimana, mentre il titolo del film ve lo diciamo prima della fine della trasmissione. Adesso tocca a Dario Argento, adesso tocca a Suspiria. Tre giorni per rivedere o vedere per la prima volta per molte generazioni che non c'erano 40 anni fa, per vedere Suspiria, uno dei capolavori assoluti di Dario Argento, insieme ovviamente a Profondo Rosso e insieme a Inferno e La Terza Madre, trilogia delle tre madri appunto, ma questo è davvero un film incredibile, un capostipite, film che appunto il 30 gennaio, il 31 e l'1 febbraio sarà nelle sale in versione restaurata 4K dopo il passaggio in premiere al Festival di Locarno la scorsa estate, per rivedere davvero una delle vette del cinema horror gotico, firmate da Dario Argento. Per parlarne, il nostro Boris Sollazzo, beh, pensate, si è preso un bel caffè con Dario Argento, sentite. Buonasera, che prendi tu? Io un caffè. Io un caffè decaffeinato. Ok. Grazie. Quindi è un film che ancora oggi penso che sia abbastanza attuale, moderno. Ho rivisto quando c'è stato il restauro. Sembra un film fatto oggi, fatto domani quasi. Cioè non è che è un film che è stato superato da altri, è stato, ha un suo spazio, una sua dimensione che lo rende sempre attuale. Molti definiscono Suspiria il suo capolavoro. E l'impressione anche per esempio in scelte come quella del non fare mai un'inquadratura diversa in una serie di scelte registiche, di contenuto, era che lei fosse molto consapevole che quello sarebbe stato il suo capolavoro? No, io non penso mai a questo, però pensavo che in questo film mi sarei molto impegnato, avrei dato molto a me stesso, ho dato proprio tutto quello che c'avevo, i miei pensieri, mio modo di fare il cinema, una specie di manifesto del nuovo cinema horror che è stato poi, diciamo, non copiato, ma è stato ripreso da tanti altri registi, perché aveva detto uno spirito diverso, uno spirito, un modo di concepire proprio il cinema, che non era normale, non era come tutti i film che si fanno. Una cosa che mi ha colpito, io ricordo, l'ho visto abbastanza piccolo il film, e ricordo che nonostante appunto fosse un horror, la sensazione che mi è rimasta non era il terrore della visione, ma l'inquietudine che mi ha lasciato nei mesi a venire, ma non nel senso di incubi, qualcosa di più profondo, di qualcosa di più esistenziale. E mi chiedo se, al di là delle ispirazioni cinematografiche, fosse quello l'obiettivo, cioè di andare più a fondo, di scuotere, diciamo, le fondamenta degli spettatori. Sì, certo, c'è molto Freud in questo film, c'è la storia dell'arte, c'è tutte le mie fissazioni, le mie paure interiori, quelle profonde, quelle dei sogni in realtà, tutti i sogni più freudiani. Mi fa molto piacere rivederlo al cinema, perché è molto tempo che non lo vedo al cinema. Ce l'ho visto, ma con copie pessime, quindi praticamente non l'ho più rivisto da allora. Adesso come ne vado? Perché devo tornare a casa. Sì, no, assolutamente, grazie. Va bene. Allora, Dario Argento, che ha dato tutte i suoi racconti, le sue aneddotica, le sue spiegazioni a Boris Sollazzo nel corso di questa intervista. Boris, io ti ringrazio per questa chiacchierata e per questo caffè con Dario Argento e ti do appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora noi diamo di nuovo la viabilità. Fra poco però, non è mica finita, c'è pronto con la versione teatrale di Una giornata particolare. Giulio Scarpati sarà qui con noi e poi tutto il cinema da vedere in casa. Restate con noi. La rosa purpurea. Al capo del Reich lungo tutto il percorso in territorio tedesco, il treno Führer è entrato in Italia. Schierate lungo i binari, comincia il viaggio trionfale di Hitler verso Roma. Il viaggio di Hitler verso Roma dai cinegiornali dell'EIAR è una storia che diventa un film straordinario, un capolavoro del nostro cinema come Una giornata particolare di Ettore Scola, e che adesso, ormai da un po', uno spettacolo rodato, arriva a Milano con protagonista Giulio Scarpati. Una giornata particolare al Teatro Franco Parenti di Milano da martedì 31 gennaio a domenica 5 febbraio. C'è una settimana per andare a vedere questo spettacolo che, come dire, fa diventare carne e ossa un film che abbiamo davvero amato tanto. Valeria Solarino, protagonista femminile, nei panni che furono di Sofia Loren, mentre in quelli che furono di Marcello Mastroianni c'è Giulio Scarpati, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio, grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ti chiedo, come si sta in quei panni? Perché devono essere abbastanza scomodi. No, guarda, si sta benissimo, perché il personaggio è straordinario. Il personaggio di Gabriele è straordinario, vabbè, Mastroianni ha fatto un'interpretazione sublime del personaggio, ma era film, insomma era un film comunque. Qui è in teatro, quindi cambia abbastanza, nel senso che è un'altra cosa, per cui io il riferimento, che essendo Matroianni irraggiungibile, il mio riferimento è Gabriele, che è comunque un personaggio bellissimo insieme a quello d'Antonietta, e noi abbiamo lavorato su questo, insomma, praticamente, perché certo poteva essere schiacciante fare il confronto e pensare soltanto a fare una cosa, cioè diciamo così, con questo riferimento, però è anche uno stimolo, perché insomma, proprio perché c'è un'interpretazione straordinaria di Mastroianni e della Loren, era per noi un compito arduo, ma è anche una sfida importante, per cui siamo contenti, anche perché, ripeto, la storia è molto teatrale, perché si svolge tutto nello stesso giorno, nello stesso spazio e tempo, per cui ed è stato un merito della regia di Nora Venturini quello di aver fatto praticamente uno spettacolo che dura 1:35 senza nessuna interruzione e senza nessun cambio, diciamo così, buio, per cui l'azione scenica è continuata, e questo dà anche più emotività e più emozione anche al pubblico che la guarda. Un film che aveva dentro tanto teatro, ti chiedo quanto del film è rimasto invece dentro la vostra performance teatrale? No, dunque le battute sono tutte, il testo è tutto quello di Maccari Scola, non c'è stata nessuna virgola, semmai sono state tagliate delle cose per rendere appunto più fluido, anche perché il cinema ovviamente con un cambio scena, un cambio di inquadratura cambiava luogo facilmente, nel teatro ovviamente dovevi inventarti qualcosa di diverso, quindi c'è una bellissima scenografia su due piani, su più piani, che di volta in volta diventa il luogo che viene evocato, però ecco, diciamo che non abbiamo cambiato niente, le parole, e per questo ti dico che è una bellissima sfida, ma anche un grande piacere, perché Scola ha scritto battute, certo, bellissime, e quindi è un piacere ogni sera confrontarsi con una qualità di scrittura così alta, insomma, ecco, tu ti senti un po' più piccolo, ma comunque hai la soddisfazione di dire delle cose meravigliose. Così alta e così moderna, Giulio, perché qui si parla di tematiche come appunto l'esclusione sociale in un certo senso, l'omosessualità, temi che, voglio dire, sono ancora lì, sono ancora sul tavolo. Ma guarda, diciamo così, questa è la storia di due solitudini, da parte di Antonietta che è una moglie, madre, schiava, diciamo, e da parte di Gabriele che è un omosessuale cacciato perché è omosessuale dalla radio, e quel giorno, questa giornata particolare è per lui perché è la giornata in cui lo porteranno al confino e non sa dove. Però voglio dirti anche, lo spettacolo non è soltanto fatto da noi due, c'è tutta la famiglia, la portiera, tutti i personaggi anche della famiglia, che sono molto importanti, perché la famiglia che si prepara per andare alla parata dell'incontro fatidico tra Hitler e Mussolini e il ritorno dalla parata con l'esaltazione, ed è veramente molto molto... Cioè, abbiamo cercato di fare appunto come nella tradizione proprio di Scola, di mettere insieme commedia e dramma, e anzi è bello quando si ride e un attimo dopo c'è un momento di commozione, per cui proprio, insomma, forse questa è la caratteristica che a me piace di più di Scola, cioè il fatto che passa da un registro a un altro con enorme facilità. E questo è anche il bello, perché nella vita succede così, cioè le tragedie spesso avvengono in un contesto che sembra quasi di commedia e viceversa. Giulio, grazie per essere stato con noi. Ricordo dal Parenti, dal 31 gennaio al 5 febbraio, una giornata particolare. Grazie ancora, Giulio Scarpati. Arrivederci a tutti, grazie a voi. E allora, dal cinema da vedere a teatro, al cinema da vedere in casa, con le segnalazioni di Fil TV, è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Giulio, partiamo dal game della scorsa settimana. Siete la nostra seconda coppia dello stesso sesso oggi. No, veramente noi... Assolutamente sì, manca solo il dono di un bimbo per farci sentire completi. E allora si trattava di Bridget Jones Baby, lo hanno indovinato due ascoltatrici, Vera Pacati di Bergamo e Silvia Pisati di Burago di Molgora, saranno loro a ricevere il film con René Zellweger. Raccontiamo un po', Giulio, i contenuti di questa edizione in DVD. Sì, esce in DVD, questo che è il terzo film con la protagonista pasticciona Bridget Jones, diretto come il primo capitolo dalla regista Sharon Maguire, ed è un film veramente superiore e migliore del capitolo 2, che Pasticcio Bridget Jones, che era veramente un pasticciaccio brutto. Questa è una sorta di replica della ricetta del primo film e punta tutto su una comicità molto accelerata e al limite del demenziale, con una Renée Zellweger veramente strepitosa, ed è un film tutto fatto di venti a rotta di collo e battute veramente ben scritte. Insomma, un divertimento leggero che emancipa la figura femminile dalla rappresentazione standard del cinema a cui siamo abituati e che affronta anche questioni importanti come la maternità in età avanzata. Ora arriva appunto in DVD, un DVD ricco di extra con tante immagini mai viste, che vanno dalle scene eliminate agli errori. Giulio, diamo l'occhiata invece alle proposte televisive in chiaro della prossima settimana, partendo dal lunedì. Abbiamo parlato settimana prossima di Pinocchio di Antonio Latella, che è in scena al Piccolo Teatro di Milano. Ebbene, un altro Pinocchio reinterpretato fu AI, intelligenza artificiale, di Steven Spielberg. Sì, una libera reinterpretazione, come dicevi, fantascientifica del libro di Collodi, tratto da un racconto di Brian Aldiss, un film che avrebbe dovuto fare Stanley Kubrick, ma che passò poi a Steven Spielberg e che per via del peso di cotanto padre del progetto è finito poi per passare come se fosse un film poco riuscito. Secondo me non lo è assolutamente, è un film magari fragile, profondamente spielbergiano, sognante e tristissimo, una sorta di romanzo di formazione, ma anche un ripensamento sentimentale, sociologico, di tutto il genere fantascientifico. Per me, insomma, si tratta veramente di uno dei più bei film di Spielberg e per questo, insomma, sono felice di segnalarlo. E allora ricordiamo l'appuntamento, che sarà su Paramount Channel a 1 di notte di lunedì con AI, intelligenza artificiale. E invece abbiamo parlato di musical molto oggi durante la nostra puntata con La La Land. Certo, un titolo come La donna che canta è un titolo che un po' riporta a quelle atmosfere, anche qui siamo da tutt'altra parte. Sì, proprio tutt'altra parte. Qui questa è la storia di un notaio che legge a due fratelli il testamento della madre. I gemelli restano scioccati nel vedersi porgere due buste, una è destinata ad un padre che loro credevano morto e l'altra ad un fratello di cui ignoravano totalmente l'esistenza. E tra l'altro tutto è veramente molto peggio di quello che pensano. Denis Villeneuve è in sala con Arrival, ma questo Ansandi, La donna che canta, tratto da una pièce di Vajid Mouad, è a mio avviso e rimane il suo film migliore. Una narrazione a scatole cinesi tra presente e passato, tutto impaginato con grande cura, rigore, concessioni romanzesche, e con questo formalismo classico che diventa una sorta di lirismo tragico spesso. È veramente un'opera di rara potenza, compatto nella costruzione, con una resa cinematografica inattaccabile e una struttura anche teatrale sfrontatamente manipolatoria, con uno dei finali veramente più sconvolgenti, secondo me, di questo inizio millennio. E allora lo potete vedere nella notte di giovedì, La donna che canta di Villeneuve, su Rai Movie alla 1:20. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, un caro saluto. E allora il tempo di dirvi che oggi abbiamo giocato con Alla ricerca di Dory, e questo l'avevate forse già capito e indovinato, e che la settimana prossima vi faremo sapere chi ha vinto, e poi i saluti. Saluti, l'appuntamento a sabato prossimo alle 18, La Rosa Purpura qui su Radio 24, tutto il cinema che c'è.